sputava sui gatti, calcola quanto potrà durare. E il guardiano del regno dei ratti non ha più niente da considerare. Da qualche tempo le strade sono troppo affollate o troppo deserte. Le case hanno le porte sbarrate e le finestre aperte. I medici non si sanno curare e sono morti di malinconia. E il giornalista è a raccontare la cronistoria dell'epidemia. C'è la peste che passa dal se boulevard, e la peste te sui, e la peste regarde, puis te prende, te touche e t'embrasse la bouche. Città, le navi non attraccano più. E il cameriere del Caffè Central ha nostalgia del suo marinaio. Cavallette sulle camionette dei militari sui cavalcavia. E l'ultima radio trasmette i numeri di questa lotteria. Il mercante è quasi felice, valgono oro ora le scorte. A teatro guarda l'attrice che danza ancora la vita e la morte. C'è la peste che gira da questi paraggi, è la peste dei sani, è la peste dei saggi, e ti prende, ti tocca e ti bacia la bocca. A tutti gli infetti, a tutte le infette, è stato vietato di essere visti. E l'altoparlante promette la rivoluzione dei commercialisti. E mentre la gente aspetta l'appello, il tempo saccheggia i cuori ed i volti. Ma il prete ha detto che questo flagello è stato mandato per saldare i conti. Che grida tra questi palazzi, è la peste dei sani, è la peste dei pazzi, e ti prende, ti tocca e ti copre la bocca.